La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:30 primi e 26 secondi in diretta qui da un'assolata Milano praticamente preestiva, anche se qui tutte le signore hanno le pellicce addosso, fumano come delle stufe, però bisogna capirla le signore. E vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast Oscar Giannino come sempre, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @24.it. Come sempre, dopo che come ieri abbiamo fatto qualche puntata della nostra serie che intervalliamo alle puntate ordinarie in cui inseguiamo la cronaca economica dedicata invece al ciclo Via dall'Italia, un paese non per giovani, ieri sono arrivate un'altra raffica di disponibilità da parte vostra, degli ascoltatori, alcune anche stimolate dall'intervento in particolare ieri di un ascoltatore, quello più avanti con gli anni, che parlando alla propria figlia in Germania diceva: io sarei disposto in questa società non per giovani, vista le pensioni retributive che ci abbiamo a incassare io e mia moglie, da lui stesso definite generose rispetto a quelle che riserveremo alle generazioni successive. Ricordate che quel genitore catanese ha detto: io sarei disposto a rinunciare a una parte della generosità del mio assegno retributivo e di quello di mia moglie, se però ci fosse un impiego rivolto di queste risorse rivolto ai giovani. Una posizione che ha fatto, che ha colpito, ma fa discutere molti di voi. Naturalmente il più è contrario, ma ce lo siamo già detti ieri. Altri hanno apprezzato, ma dicono: sì, ma proprio l'extrema ratio, perché dicono: ma insomma, bisogna, lo Stato deve trovare le risorse. Lo Stato deve trovare le risorse, sì. Allora mi sono detto: oggi parliamo di pensioni, così capiamo meglio lo Stato che deve trovare le risorse. Ma lo Stato già ne trova un mucchio ogni anno dalle tasche dei contribuenti per far quadrare i conti che non quadrano. Quindi oggi facciamo una riflessione sulle risorse della Previdenza, il conto economico e patrimoniale dell'INPS, per capirci, approfittando del fatto che ieri ci sono stati due spunti molto importanti che sui giornali di oggi hanno portato quasi tutti gli organi di informazione ad occuparsene, perché da una parte c'è stata la consegna al Parlamento del rendiconto generale della Corte dei Conti sul bilancio conto economico e patrimoniale dell'INPS relativo all'anno 2015, e dall'altra ieri c'era la presentazione di uno dei frequenti report, ma insomma c'è un importante report annuale che fotografa lo stato e l'andamento del settore della previdenza e dell'assistenza, che è curato da itinerari previdenziali di Alberto Brambilla. E che cos'è lo spunto che trovate sui giornali di oggi? Lo spunto, la notizia, che però non è una notizia tale da generare grande impatto nell'opinione pubblica, come per certi versi giusto e comprensibile, la notizia è che nel 2015, il 2015 per i conti economici dell'INPS si è chiuso con un risultato negativo di 16,3 miliardi, soprattutto dovuti a 13 miliardi di accantonamenti per crediti contributivi che sono oramai praticamente inesigibili, quindi bisogna accantonare una somma perché quelli già figuravano nei bilanci precedenti. E a questo invece, per quello che riguarda il conto patrimoniale, beh, anche quello va male, va sempre peggio, perché in pochi anni, e vedremo poi perché, è sceso verticalmente. Il patrimonio netto dell'INPS era di quasi 22 miliardi nel 2012, è sceso a di molto nel 2015. Nel 2016 entra per la prima volta in territorio negativo, registrando meno 1,7 miliardi. Nel 2017, se guardiamo il bilancio previsionale dell'INPS, andrà ancora peggio, fino a meno 7,8 miliardi. Allora, io dico innanzitutto una cosa che deve essere chiara a tutti: queste cifre non significano che dovete temere che improvvisamente non vi paghino le pensioni. Il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ieri, commentando queste cifre, che sono quelle del rapporto appunto della Corte dei Conti, ha detto: ricordo a tutti che le pensioni sono garantite dallo Stato. Questo non significa però che noi non dobbiamo preoccuparci a di capire e poi di riparare ciò che continua a non andare nel complessivo sistema delle spese dell'INPS. Io ricordo a tutti che l'INPS paga con il suo bilancio prestazioni che si devono sia alla previdenza in senso stretto, le pensioni, sia all'assistenza, svariatissime forme di assistenza. Allora mi sono detto, cerchiamo di spiegare a chi ascolta alcune questioni fondamentali per capire. Primo, ma è vero davvero che dopo riforme come quelle della Fornero il sistema previdenziale è stabilizzato, anzi il migliore in Europa, spesso trovate questa definizione sui giornali, è stabilizzato? Uno. Due, è vero davvero, come per esempio sostiene il rapporto presentato ieri dai itinerari previdenziali, che se guardiamo le sole pensioni al netto dell'assistenza il conto dell'INPS è in equilibrio, anzi addirittura è in utile di 3 miliardi nel 2015, ci dice ieri i itinerari previdenziali? O è vero invece che gli oltre 100 miliardi di euro l'anno che all'INPS vanno dalla fiscalità generale, cioè dalle imposte di noi tutti, servono a pagare non solo l'assistenza, che è giusto venga pagata dalla fiscalità generale, ma servono anche a coprire la differenza tra i contributi previdenziali e le prestazioni strettamente previdenziali erogate dall'INPS, cioè resta un buco, e buco che comunque non è integralmente ripianato, perché visto che vedete che comunque il conto economico piange comunque. Ecco, tentiamo di capire queste due cose. Terzo, sul totale della spesa pubblica italiana, se vediamo le maggiori voci della spesa sociale, no? E vediamo quindi la sanità, la previdenza, l'assistenza, ciò che va alla famiglia, ciò che va alla casa, ma noi abbiamo una ripartizione della spesa sociale che è equilibrata o no? Oppure concentriamo molto più degli altri paesi europei su una posta, il più della spesa pubblica, mentre invece su tutte le altre restiamo molto al di sotto della media, aggravando così un problema fondamentale del nostro paese, cioè quello demografico. Ecco, fondamentalmente questi interrogativi vorrei in qualche modo contribuire a chiarirli in questa puntata con un'ultima premessa. I conti dell'INPS sono dannatamente complicati. Cosa vuol dire che sono complicati? Poiché sull'INPS insistono una molteplicità di fondi, di normative, di complicatissima, ciò consente a diversi osservatori di esercitarsi computando in maniera diverse le poste delle entrate, cioè dei contributi, quelli dei trasferimenti pubblici sono chiari, e soprattutto della spesa. E questo spiega perché alcuni sostengono addirittura che contributi sopravanzano la spesa previdenziale in senso stretto. Questa è una tesi storica del sindacato, è una tesi storica di tutti coloro che si oppongono a nuovi interventi sulle pensioni, mentre invece, andando a vedere le cifre vere, vediamo che cosa scopriamo. Allora, per consentirci come guida all'interno di questa foresta abbastanza complicata, a dirvi la verità, ma in cui l'andamento dei numeri degli ultimi anni testimoniano che non è vero che non ce ne dobbiamo preoccupare. Sì, non si rischia di non pagare la pensione a nessuno, però dobbiamo pensare a come riequilibrare questa faccenda, oltre a porci il problema se sia giusto. Ecco l'ospite che abbiamo scelto, Stefano Patriarca, che è consigliere economico dell'unità di coordinamento della politica economica di Palazzo Chigi, ha una lunghissima storia professionale e personale di applicazione in termini scientifici proprio in centri studi sui conti della previdenza italiana e dell'INPS, e quindi grazie di essere con noi. Grazie, grazie a voi. Grazie, allora, Gianino. Partiamo da una prima domanda. Ma quanto spendiamo davvero in pensioni? Perché se uno legge i itinerari previdenziali dice il 13%, poco più dell'11% della media europea. Se uno guarda l'Istat, Eurostat, dice no, quasi il 16%. Sì, purtroppo è il 16%, perché come dire, il dato che dà l'Istat è un dato che, come dire, tiene conto di un accordo internazionale a livello di Eurostat, di Unione Europea, ma anche di OCSE, d'accordo? tutti i paesi si sono accordati su una metodologia di calcolo della spesa previdenziale, è quella che usa anche la Ragioneria Generale dello Stato, è quella che usa il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è abbastanza consolidata, certo si possono fare altri conti, ecco, però il punto di riferimento è quello lì. Però che cosa c'è dietro a questo 16%, in realtà diciamo 15,8 più o meno? C'è una composizione molto intrigata, perché potrei dire si fa presto a dire pensioni, pensioni che cos'è? Ecco, diciamo, invece, quando diciamo pensioni previdenziali sono quelli per le quali si paga un contributo e si riceve una prestazione, che però se il contributo però non è proporzionale o non è in equilibrio rispetto alla prestazione può essere previdenziale, ma è sicuramente in deficit, ovviamente, come lo è stato per, in molti casi in questi anni. Quali sono le pensioni previdenziali quindi? Più o meno noi spendiamo ogni anno in pensioni previdenziali 250 miliardi. Alt! Itinerari previdenziali dice che ne spendiamo molti meno. Ne spendiamo molti meno perché che cosa fa? Sottrae a questi 250 miliardi quelli che lo Stato restituisce alle gestioni previdenziali in rapporto al fatto che lo Stato ha deciso di finanziare un pezzo di previdenza che non era in equilibrio e quindi i vecchi debiti dei settori che non hanno pagato più prestazioni di quanti contributi hanno incassato, pensiamo che ogni anno spendiamo circa 4 miliardi sul fondo delle ferrovie dello Stato, oppure ci sono vecchie regolazioni, insomma tutti questi interventi di sostegno, non so, uno degli ultimi che ci è andato a finire, vi ricordate quando abbiamo pagato per quella sentenza della Corte Costituzionale, d'accordo, che ha dichiarato illegittimo, no, il prelievo il blocco dell'indicizzazione sulle pensioni sopra un certo livello. Ecco, quando sono stati restituiti questi soldi, che erano soldi sicuramente previdenziali, passano per questo contenitore che si chiama GIAS. Allora, certo, se io tolgo dai 250 miliardi che spendo effettivamente i 50 a carico dello Stato, GIAS, che paga per intenderci, appunto, la gestione dell'assistenza, per capirci. Sì, però attenzione, in realtà il nome esatto non è gestione dell'assistenza, è gestione dell'assistenza e sostegno alle gestioni previdenziali, appunto perché 50 miliardi lo Stato li mette ogni anno più o meno per rifondere oneri di natura previdenziale. Aspetti, d'accordo? Aspetti, qua mi tocca fare una specie di ripetente, ma però lo dico a beneficio di chi ci ascolta. Ci addentriamo in questi dettagli, perché questi 50 miliardi, come vedete, visto che il sindacato, partiti di destra e di sinistra dicono ma quelli non sono pensioni, si paga molto meno in pensione rispetto ai contributi raccolti per pensioni in attivo, non è vero, quindi diffidate di chi ve lo dice, perché invece, come vedete, quei 50 miliardi ci sono, spesa previdenziale e come. Ecco, quindi punto numero uno, perché questo serve a capire che siamo in equilibrio noi rispetto ai contributi. Ricordiamo quanti contributi vengono raccolti rispetto a quello che poi... Allora, a fronte appunto della parte pensionistica, perché ricordiamo che l'INPS incassa contributi anche per altre cose, per la disoccupazione, però diciamo, se scorporiamo la parte pensionistica, i contributi che effettivamente vengono riscossi al netto di quelli che le imprese o i lavoratori non pagano perché sono fiscalizzati, quindi a carico dello Stato, siamo attorno appunto a 195 miliardi di euro, ecco. 195-200, insomma, è la differenza, i famosi 50 miliardi, d'accordo, sono quelli che praticamente mette lo Stato, anzi in realtà non bastano tutti quanti, non perché bastano. Il deficit economico di quest'anno, d'accordo, poi deve essere ulteriormente compensato. Però è chiaro qua a voi che siete in ascolto che anche nella gestione previdenziale stretta lo sbilancio resta e come, quando dico resta e come, stiamo parlando di una cifra superiore a 3 punti di PIL l'anno di sbilancio, 3 per 16, fatevi il conto, di questo stiamo parlando. Quando vi dicono il sistema è stabilizzato, anzi inattivo dal punto di vista previdenziale, tutto il resto è l'assistenza, quindi cioè, paghi lo Stato, cioè pagano i contribuenti, non è vero. Corretto, Patriarca? È corretto, anche se però io sottolineo un elemento. Cosa significa deficit, d'accordo, in questo caso, insufficienza? È il fatto che rispetto ai contributi che vengono fissati, va bene, non ce ne sono abbastanza per pagare tutte le pensioni previdenziali, Però attenzione, in realtà il contributo viene fissato, non dallo Stato, è il 33%, d'accordo? Potrebbe, in realtà, se dovesse essere fissato per tenere conto dell'equilibrio, dovremmo metterlo attorno al 44%. Al 44%, questa è l'aliquota teorica di equilibrio. Ma ovviamente questo, come c'è da tenere conto che l'intervento dello Stato in ogni paese, d'accordo che c'è un sistema pubblico previdenziale, c'è un intervento. Il problema è che non è legittimo dire, se è legittimo ipotizzare l'intervento, diciamo, di solidarietà, di sostegno a un paese che invecchia, è meno legittimo dire attenzione, le pensioni previdenziali si pagano da sé. Perché purtroppo non è esattamente è così. Vero. Quindi, poi secondo. Forse così una cosa, la questione è molto preoccupante, inoltre, forse più di questa, è un'altra, è il fatto che comunque l'aliquota previdenziale è molto alta, d'accordo, il 33%, 44% teorica, eccetera, e cosa significa? Significa meno risorse ovviamente sui redditi attuali, questo è il punto della situazione. Che non basta, perché poi a questo punto bisogna aggiungere quanto viene dalla fiscalità generale e quindi è un ulteriore sborso. Assolutamente. Allora, io per far capire qual è il problema, se uno pensa alla crescita del paese e alla giustizia intergenerazionale, che dovrebbe essere lo stesso tema per cui facciamo le puntate sui giovani che se ne vanno, se uno va a vedere, questa è una parte che invece secondo me non è suscettibile di tante critiche, al netto di qualche cifra così un po' corretta, ma voglio dire, questa è affidabile. Se andiamo a vedere il totale della spesa sociale del nostro paese, cioè sommiamo quella in pensioni, in sanità, l'assistenza, le prestazioni temporanee, l'INAIL, il welfare degli enti locali, le retribuzioni dipendenti della pubblica amministrazione, eccetera eccetera eccetera, noi otteniamo un totale della spesa sociale nel nostro paese che non è affatto basso come pretendono alcuni rispetto all'Unione Europea, anzi siamo nella parte altissima del ranking dei paesi europei, perché sono buoni 440 e anzi qui mancano i 40 miliardi e rotti di pensioni in più, sono in realtà 470 miliardi di euro l'anno, cioè sono più del 55% del totale della spesa pubblica nel nostro paese nel 2015 in spesa sociale. Il problema è che avendo quasi un 16% di spesa previdenziale, ed essendo su quello quindi buoni 5 punti più in su rispetto all'Unione Europea, noi ci troviamo a riservare ad altre poste, classicamente famiglia e casa, che sono i punti dolenti per le giovani generazioni, moltissimo meno degli altri paesi europei. E facendo così il nostro welfare diventa non solo costoso, diventa iniquo, perché noi continuiamo, virgola, con un'aliquota altissima, che dovrebbe essere ancora più alta, ma altissima, a non solo a drenare molte più risorse che altrove da un reddito disponibile che è già molto basso per le botte che ha avuto nella crisi, ma continuiamo a patrimonializzare per un futuro che sarà iniquamente distribuito per i giovani, mentre ai giovani oggi questa spesa sociale riserva pochissimo. Allora, alla domanda è corretta questa ipersemplificazione giandinesca che faccio a Patriarca, la risposta dopo un minuto di traffico. La versione di Oscar. Allora, è con noi Stefano Patriarca, consigliere economico dell'unità di coordinamento della politica economica del Palazzo Chigi. Stiamo parlando INPS, pensioni e assistenza, il totale, insomma, della spesa sociale del nostro paese, ma soprattutto partendo spunto dai conti dell'INPS e da quello che ieri la Corte dei Conti ci ha detto sul bilancio 2015. Allora, questo concentrarsi in percentuale così più elevata sulla previdenza e le minori poste percentuali in termini proprio di frazioni del PIL per le altre componenti della spesa sociale, cosa determina nel medio e lungo periodo, Patriarca? Determina molti fattori, in parte li ha già determinati. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto una prevalenza di spesa sociale sulle pensioni, in particolare sulle pensioni di anzianità. Forse è interessante sottolineare che dei famosi 250 miliardi che dicevamo prima annui, noi ne spendiamo circa 120, cioè quasi la metà, per pensioni di anzianità, cioè pensioni incassate prima di vecchiaia, d'accordo? Poi, quindi ecco, a un certo punto in questi 20 anni abbiamo concentrato, in particolare negli ultimi 20 anni, e paradossalmente dopo la riforma Dini, che è partito questo processo, perché la riforma Dini, che ha messo in sicurezza il sistema, l'ha messo in sicurezza in teoria, no? Relativamente ai giovani, ma non in relazione alle pensioni pagate in questi anni. Allora, diciamo che questo tipo di processo ha determinato una spesa pensionistica robusta, importante. Qualcuno potrebbe sostenere, beh, tutto sommato abbiamo fatto anche un intervento di redistribuzione dei redditi, di sostegno dei redditi, sì, però ovviamente le altre voci di spesa sociale sono state compresse. Ad esempio, la dinamica dell'andamento della spesa della sanità o dell'istruzione è incomparabilmente più bassa rispetto agli andamenti delle pensioni. E quindi noi ci siamo trovati con una spesa sociale che è fortemente caratterizzata sull'elemento pensione, con un'ulteriore contraddizione che ci dicono tutti gli studi internazionali. È una spesa che ad esempio abbatte poco il livello di povertà. Esatto. Cioè è una spesa che inefficiente anche dal punto di vista della esatto, nel senso che addirittura l'elemento di povertà non è abbattuto d'accordo in maniera. È vero che negli anziani la povertà è inferiore rispetto ai giovani oggi, questa è la questione, ma comunque l'intervento redistributivo, quindi insomma è un intervento robusto, molto rilevante, che è stato fatto scegliendo quella strada rispetto ad altre strade di intervento sulla spesa sociale, che è come l'istruzione, la sanità, e che in realtà spesso è stato poco efficiente anche in termini di battaglia per la povertà. Questo è, però io una questione volevo sottolineare, in realtà noi abbiamo, come dire, abbiamo iniziato un percorso di stabilizzazione finanziaria. Certo, certo. È vero che tutti i paesi ci riconoscono, d'accordo, l'Unione Europea ci riconosce il fatto che con una riforma coraggiosa, ancorché dolorosa, d'accordo, relativamente a e che la politica Fornero, vuole smontare, vabbè. Sì, ogni tanto c'è qualche incursione in questa direzione, certo, poi ci sono degli elementi anche no, però la stabilizzazione è quella l'ha portata, ma in un orizzonte pluridecennale però. Bravissimo, e questo è il dato, nel senso che adesso paradossalmente il 2015, a stare ai dati della appunto i dati complessivi che cita anche di itinerari previdenziali, è l'anno in cui noi abbiamo il record della spesa pensionistica sul PIL. È vero, perché il PIL è depresso, ma comunque sì, questo è un elemento. Quindi noi abbiamo avviato un percorso di discesa. Spenderemo meno in rapporto al PIL, il problema è che spenderemo meno fra 30 anni, perché saranno contenute un po' di più le pensioni, d'accordo, dei giovani, e che tutto sommato saranno anche adeguate. Adesso tutto questo terrorismo no, dipende da quanto cresciamo un po', ecco. Bravissimo, questa è la questione. Ma certo, se mi si fa l'esempio di giovani che avranno un mercato del lavoro basso, alternato con periodi di disoccupazione, di precarietà e basse retribuzioni, è difficile pensare che si possa avere uno stato sociale delle pensioni robuste. Non è dato in natura il fatto che si abbia non è dato in natura, però noi nel frattempo da anni, questi anni non pochi, di bassissima crescita, anzi crescita negativa, decrescita, di verticale caduta del reddito pro capite e del reddito disponibile pagato tutto quello che bisogna pagare, e noi continuiamo a garantire a una stragrande maggioranza di retributive e anzianità, non di vecchiaia, una quantità di risorse annuali, insomma, che rispetto alla condizione di questi anni è molto molto molto elevato. Cioè noi abbiamo un sistema previdenziale, adesso insorgono tutti, dicono no, i pensionati a 500 euro, ok, nel complesso però molto più generoso di quanto non sia l'andamento italiano in questi anni e l'andamento dei più giovani in questi anni. Questo è, io non so come questo sistema possa essere concepito come giusto e stabile, per me non lo è, a dire la verità, cari ascoltatori. Sì, no, questo non è tanto equo, questo non c'è dubbio. È anche vero che però noi abbiamo iniziato questo percorso di correzione, d'accordo? Il sistema contributivo entrerà in vigore più rapidamente, si è dato un blocco appunto delle pensionamenti di anzianità. Certo, abbiamo un fornello degli ultimi 20 anni. A quell'ascoltatore che lei citava, che diceva ma se tornassimo indietro, oppure no, io adesso magari avrei volentieri fare questo baratto, no? Un po' meno pensione e un po' più lavoro e reddito vorrei che vedesse i tanti che, per esempio Luciano da Milano, che ci dice no, contrario a ogni eventuale sacrificio per le giovani generazioni, lo Stato deve pensare a loro. Sì, no, questo sì. Lo Stato siamo più tasse per noi, però, cioè non è che lo Stato inventa e stampa moneta. No, il problema, Genino, è che forse 20 anni fa, quando è stato messo in moto un meccanismo così esplosivo della spesa previdenziale, probabilmente al Paese qualcuno avrebbe dovuto proporre in modo più chiaro una scelta, perché la scelta è questa, insomma, volete un incremento delle pensioni di un certo tipo con una riduzione delle possibilità di sviluppo per i giovani, oppure che è un modello, che pure è un modello, non è che Il problema è che probabilmente forse 20 anni fa questa scelta non è stata fatta fare in modo esplicito, ecco, sono stati dei meccanismi impliciti, d'accordo? Dei meccanismi impliciti, ma le cui conseguenze sono tragiche, anche perché se andiamo a vedere poi il bilancio annuale dei diversi fondi delle cui gestioni hanno fatto Convergenza dell'Inps, troviamo chi è stato più bravo a garantirsi ma in migliore la valutazione del montante dei contributi pagati rispetto ad altri, e anche qui è la politica che l'ha deciso, cioè il motivo per cui il conto economico e patrimoniale dell'Inps va giù e diventa negativo è dal dopo il 2012 nell'assorbimento dell'Inps dei pensionati pubblici. Guardate che solo nel 2015 stiamo parlando di 30 miliardi di perte solo dai pensionati pubblici rispetto ai contributi, e questo riguarda poi gli altri fondi che perdono miliardi ogni anno, i 4 miliardi delle ferrovie che ricordava prima Patriarca, i coltivatori diretti, il fondo trasporti e così via. Quello attivo è quello dei parasubordinati per quasi 8 miliardi l'anno. I parasubordinati devono ripianare i pensionati pubblici. Ma vi rendete conto che è una cosa che è inaccettabile dal punto di vista della giustizia? Comunque, io ringrazio Stefano Patriarca. Torneremo a occuparci di questa che è una grandissima questione nazionale. Ho capito che siete contrari a toccarla, perché ho visto la maggior parte dei messaggi. Continuate su Radio 24, appuntamento con Alessandro Milan domani alle 8:20. Attenti a noi due.